America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. La Cina è vicina, anzi la Cina è talmente vicina che ci preoccupa un po', perché la crescita economica asiatica, di cui la Cina poi è l'emblema, è uno degli argomenti centrali che abbiamo seguito negli ultimi anni. Ci sarà un sorpasso dal punto di vista di crescita economica degli Stati Uniti, gli Stati Uniti sono preoccupati. Si parla sempre di geopolitica, di influenza militare, di influenza economica. La Cina aiuta gli Stati Uniti comprando il debito americano. Beh, adesso abbiamo cercato di convincere i cinesi anche ad acquistare un po' di debito europeo, magari a dare un contributo all'FSF. E quindi il taglio di questo rapporto che noi abbiamo come Occidente con la Cina, con l'Asia in genere, è stato sempre improntato al rapporto economico. C'è un aspetto però piuttosto interessante di cui finora si è parlato molto poco, e cioè è l'aspetto culturale. Da un punto di vista storico, se riflettiamo a quel che è successo nei secoli, a quello che è stato il progresso economico si è sempre accompagnata una crescita culturale, una crescita di influenza sulla cultura e sull'arte. Ebbene, proprio questo fine settimana a Firenze, a Palazzo Strozzi, ci sarà un convegno internazionale che sarà tutto in inglese, sarà per la gran maggioranza frequentato da storici dell'arte, economisti, collezionisti, direttori di musei e così via, internazionali, i quali rifletteranno in quella che è stata la culla poi del Rinascimento e dunque Firenze, se l'influenza culturale e artistica della Cina sta aumentando, e sta aumentando al punto magari da sostituirsi addirittura a quella che è stata l'influenza dell'Occidente. Ci saranno a questo convegno di Palazzo Strozzi dall'Italia personaggi come Recchi, presidente dell'ENI, Beltratti di Intesa San Paolo, Galateri, presidente delle Assicurazioni Generali, ci saranno finanzieri, ci saranno, vi dicevo, collezionisti, curatori di mostre e così via. Il tema è affascinante perché, se ci pensate, si distribuisce su tre direttive diverse, e cioè, per esempio, la crescita macroeconomica appunto della Cina è tale da continuare con una rapidità e con una forza da mettere in qualche modo in un secondo piano l'influenza culturale che gli Stati Uniti, per esempio, o l'Europa hanno esercitato negli ultimi 100 anni, 50 anni. Un secondo tema riguarda le capitali della cultura. Beh, New York, Berlino è cresciuta, Londra è diventata un centro culturale straordinario, e beh, in Italia ovviamente Roma, Venezia, insomma Firenze restano dei punti di riferimento. Però ci sarà anche una migrazione verso Shanghai, verso Hong Kong, verso Seoul. Ecco, abdicheremo a una preminenza culturale dopo aver abdicato a una preminenza economica. Ecco, questo sarà un discorso straordinariamente interessante. Vi racconterò poi magari come è andato questo convegno. Ma c'è anche un'altra cosa che è stata organizzata dagli Stati Uniti, e che è il Renaissance Man of the Year Award. Dunque, forse da noi succede meno, ma se voi leggeste i giornali americani vi accorgereste che molto spesso, parlando di personaggi dell'industria che hanno così sfondato nuove frontiere, filantropi, vengono definiti a Renaissance Man, un uomo del Rinascimento. Ma chi sono questi uomini rinascimentali? E allora l'idea è stata quella di definire un premio per l'uomo rinascimentale, o la donna rinascimentale naturalmente, per così mettere un po' l'accento, mettere il focus su quei valori del Rinascimento: tolleranza, imprenditoria, libertà, commercio, nuove frontiere economiche, che hanno così trasformato l'Italia e il mondo. E dunque il premio Uomo Rinascimentale per quest'anno, che sempre nel contesto di questo convegno sarà dato a Firenze, andrà a un personaggio che sicuramente ha fatto storia dal punto di vista della nostra società: Ted Turner. Ha creato la CNN, ha rivoluzionato il modo di fare media a livello internazionale. L'ho incontrato a New York, ho fatto due chiacchiere con lui proprio davanti alle Nazioni Unite. Pensate che Ted Turner, oltre a aver fatto quello che ha fatto, cioè oltre a aver rivoluzionato il mondo dei media, ha donato $1 miliardo dei suoi soldi personali alle Nazioni Unite, ha creato la Foundation delle Nazioni Unite ed ha aperto poi quelle che sono state le tradizioni di grande donazione che hanno seguito con Bill Gates e con altri personaggi che hanno donato grandi fortune alla filantropia. Il messaggio dunque per l'importanza della filantropia, ecco, vi ripropongo questa chiacchierata che ho fatto con Ted Turner davanti alle Nazioni Unite. What are we gonna do to stabilize the population? Ecco, Ted Turner, devo dire, è un grande visionario, un uomo che ha rivoluzionato il mondo dal punto di vista globale con la CNN, facendo il 24/7 in televisione, non può che essere un visionario. Dunque qui mi racconta che l'umanità non ha un progetto, quindi la sua ambizione, il suo prossimo obiettivo è quello di studiare un progetto per l'umanità, non di pensare ai prossimi 10 anni, ma di pensare ai prossimi 100 anni. Dice, la gente non si preoccupa di quelli che sono gli obiettivi di lunghissimo termine, e invece bisogna occuparsene da un punto di vista di leadership. Birth control and peace, gotta get nuclear weapons, rid of nuclear weapons, cut the military budgets way back, it's just a waste of money anyway. Qui chiedo a Ted Turner quali sono i suoi progetti a breve, e lui mi dice, ma stiamo cercando appunto di ottenere che le Nazioni Unite si mettano dietro questo progetto per il futuro, soprattutto per la popolazione mondiale. Ci sono 1 miliardo di persone che oggi non hanno abbastanza da mangiare, 1 miliardo di persone, e di questo passo avremo un altro 1 miliardo di persone da sfamare nei prossimi 14 anni. Il problema è che bisogna, dice Turner, rallentare la crescita della popolazione, che non è sostenibile. Guardiamoci intorno, dice, dove coltiveremo il grano per mangiare? C'è soltanto asfalto, cemento, sarà sempre peggio. Non ci sono terre coltivabili. Insomma, il problema della sovrappopolazione è enorme. Tagliamo le foreste e non ci rendiamo conto che poi abbiamo il problema dell'anidride carbonica. E dunque lui mi sta spiegando che vuole spingere le Nazioni Unite perché facciano, al di là del progetto per il millennio, qualcosa di ancora più ambizioso. Ecco, e su questo punto devo dire, Ted Turner è di nuovo agito in prima persona. Pensate che è il secondo proprietario terriero degli Stati Uniti, ha territori sparsi negli Stati Uniti, terre selvagge che ha mantenuto come terre selvagge, le ha usate per la ripopolazione del bisonte, del bufalo americano, che era in via di estinzione, adesso l'ha completamente ripopolato, ha l'equivalente di terre per metà della Lombardia. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. È uscito il nuovo video di The Big Pink, titolo Hit the Ground. Il brano fa parte del secondo album del duo Future This, che uscirà a gennaio. The Big Pink, Hit the Ground. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.